Va bene. Allora, vi saluto pure collettivamente, vi ho salutato già uno per uno, sti quattro che siamo. E io ho colto l'opportunità che mi ha offerto Bruno per proporre un ragionamento sulla articolazione culturale che ha avuto la società la società in cui viviamo fino a qualche decennio fa. Noi viviamo in un contesto che è un modo di vivere, un modo di produrre, un modo di abitare, di consumare, che si fonda su un immaginario millenarista, cioè un immaginario che ha conferito all'uomo una possibilità di dissociarsi dalla natura, di distaccarsi, cioè un immaginario costruito su una concezione dicotomica. Da una parte c'è l'uomo, da una parte c'è la natura che è muta, silente, ben ordinata, a disposizione di quest'uomo smisurato, divinizzato, energivoro, perché poi questo immaginario la costruzione di questo immaginario ha una storia lunga che parte almeno dal periodo cartesiano, ma è un immaginario che si è insediato in maniera stabile e prepotente, soprattutto da quando è stato accessibile tutto il mondo dell'energia fossile per l'epoca dello sviluppo industriale. Da quel momento, cioè, il fossile come energia a basso costo ha dato questa sensazione generale, cioè c'era una possibilità di espandersi in maniera illimitata. Infatti è millenarista questo immaginario perché ha concepito lo sviluppo come finalità interna del tempo. Infatti è da un po' di anni che sentiamo parlare di fine della storia e il futuro l'ha concepito come crescita economica illimitata. Anche delle persone che erano sensibili alla diversità culturale, per esempio Ernesto De Martino, che ha fondato in Italia la moderna antropologia, e diceva dei contadini che avrebbero dovuto fare ingresso nella storia, perché poi questo immaginario, cioè questa cultura che sorregge la realtà industriale, è in maniera molto marcata etnocentrica, cioè ha annullato la possibilità di accostarsi ad altre culture, ad altre epoche della storia, come se queste culture fossero tutte segnate dall'arretratezza, cioè fossero inquadrabili, dato che non hanno avuto le linee di tendenza comuni alla società industriale, cioè la società industriale ora si fonda sull'innovazione tecnologica continua e quindi il tempo storico lo concepisce come qualcosa che va sempre avanti, non si sofferma, cioè la conoscenza, mentre le culture rurali di cui dobbiamo parlare stasera, cerchiamo di parlare, fondavano la conoscenza sul rapporto con la storia passata. La società in cui viviamo ha liquidato il passato, cioè l'innovazione tecnologica continua che fonda la conoscenza. E allora l'idea che ci abbiamo delle altre culture, di civiltà ricchissime come sono state le civiltà precolombiane, la civiltà indiana, quella cinese, è un'idea che le condanna attraverso questa categoria dell'arretratezza perché non hanno avuto lo stesso orientamento. E millenarista, per esempio, era Davide Lazzaretti, cioè pensava questo messia dell'amiata che aveva fondato una setta religiosa, pensava che ci sarebbe stato l'avvento di un nuovo mondo, cioè un mondo che in quel caso era un mondo retto dalla spiritualità, dai principi religiosi. Però, cioè, ora quando si pensava all'anno 1000 si è coniata questa parola millenarista, cioè quando le popolazioni medievali aspettavano l'arrivo di questa scadenza cronologica, credevano che ci sarebbero state delle trasformazioni profonde, un altro mondo. Ora, il millenarismo del capitalismo, del modo di vivere nostro all'interno del capitalismo, cioè è l'idea che c'è stato l'avvento di una società che ha piantato le radici e ha trasformato tutto. Ora, questi contadini che ci sono stati in Calabria, di cui io ho l'incarico di parlare, contadini, pastori, la cultura rurale che è stata vivissima nell'Italia meridionale almeno fino agli anni del dopoguerra, ma che è arrivata fino al Novecento, tant'è vero che io ho potuto conoscere delle persone di estrazione pastorale a Marina di San Lorenzo, che è un paese, un posto, un luogo che è a 40 km da Reggio. Quando ero bambino, cioè io sono del 68, quindi negli anni 70, c'era ancora una cultura rurale legata ad alcune famiglie che avevano gli animali, per lo più avevano animali, loro li chiamavano animali minuti, cioè ovini, avevano capre e pecore. Queste persone avevano una maniera di organizzare la realtà, un modo di rapportarsi al territorio che contraddiceva la pretesa di assolutismo che la cultura moderna, la cultura della quale siamo imbevuti tutti, perché il problema che stiamo vivendo oggi è che non, il capitalismo non è soltanto un modo di organizzare la produzione, quindi una maniera di devastare il mondo attraverso la crescita infinita, l'uso della natura e l'idea che la natura sia soltanto un insieme di risorse, uno spazio di discarica. Il capitalismo è un modello antropologico che è stato abbracciato da tutte le classi sociali. Quindi il problema contro cui sbattiamo il muso noi quando ragioniamo sulla necessità di trasformare la società, di contribuire a cambiare lo stato delle cose presenti, è che proprio che anche il proletariato, il sottoproletariato hanno aderito, c'è un sistema culturale che ha permeato le attese, i desideri di tutte le persone. Quello che diceva Pasolini quando ragionava sul cataclisma antropologico, per tanti anni lui ha scritto degli articoli sui giornali di grande diffusione nazionale, penso che lo sappiate tutti, che erano profondissimi dal punto di vista dell'analisi antropologica. Cioè Pasolini si era reso conto che il consumismo, il produttivismo soffocavano l'istanza di giustizia, avevano raggiunto quello che il fascismo non era mai riuscito a raggiungere. E siccome Pasolini aveva una attenzione, una sensibilità estrema nei confronti della diversità culturale, delle culture del terzo mondo, delle culture rurali italiane, Pasolini aveva capito che le persone che erano appartenute al mondo rurale non erano state nelle loro coscienze piegate dal fascismo. Aveva fatto un'analisi secondo me molto, molto pertinente. Cioè aveva detto: finché il fascismo è stato capitalismo armato, cioè un sistema di repressione, un'organizzazione politica basata sulla violenza, e poteva anche in un territorio riuscire a determinare le sorti delle persone, ma la condizione interiore delle persone che facevano parte dell'universo contadino, che poi lui diceva giustamente pure, l'universo contadino è transnazionale, non riconosce le nazioni, cioè c'ha un modo di sentire, di guardare la realtà che si ritrova un po' dappertutto. E in effetti la cultura di cui vi voglio raccontare era una cultura che era ancora legata all'antica religione agraria, che aveva preceduto il cristianesimo e che era stato patrimonio comune quantomeno del contesto mediterraneo. Quindi queste persone che io ho conosciuto a San Lorenzo, in particolare sono stato vicino a una famiglia, Scaramozzino si chiamavano, il marito era del 21, la moglie era del 31, ed erano delle persone, avevano la casa aperta, che era l'epicentro della vita sociale dell'epoca, cioè tutte le persone che poi la sera tornavano dalla campagna passavano di là, loro sapevano suonare e cantare, poi come cercherò di dirvi l'espressività poetico-musicale era cruciale in questo mondo culturale. E questa realtà era fondata su un immaginario opposto rispetto a quello di cui parlavamo prima, cioè loro pensavano che la cosiddetta natura non era qualcosa di separato dall'uomo, e allora vivevano il territorio come habitat, cioè come realtà in cui riuscivano a ricavare la sopravvivenza, ma tutti gli sforzi culturali, mentali della loro esistenza quotidiana erano correlati, connessi alla necessità di creare delle forme di comunicazione con i non umani, con gli elementi della natura, ma perché l'antica religiosità agraria di cui parlavo prima e che loro avevano abbracciato completamente, anche se non ne erano perfettamente consapevoli, perché c'era stato un sincretismo col cristianesimo, cioè loro si ritenevano cristiani, cattolici, ma continuavano ad essere refrattari all'idea di un Dio unico. Erano nella concezione panica della natura. E infatti, quando, siccome loro onoravano delle divinità, avevano divinizzato la natura, cioè la natura che per noi urbanizzati è separata, quindi è dicotomicamente separata, per loro era soggettivizzata, come altre culture hanno soggettivizzato elementi della natura, li hanno resi centrali secondo i contesti culturali, le cosmogonie che hanno edificato. Però anche i nostri contadini, i nostri pastori continuavano a pensare che c'erano degli elementi soprannaturali, c'era un mondo soprannaturale col quale loro avevano tutti i giorni a che fare nei loro itinerari quotidiani nella campagna. Per esempio, per essere concreti, questo pastore Pasquale che io vedevo tutti i giorni, ogni anno accordava le campane delle capre. Queste campane delle capre le accordava come la zampogna. La zampogna era uno strumento musicale di grande centralità, infatti tutti gli altri strumenti musicali utilizzati nella cultura musicale regionale hanno sempre avuto a che fare col modello sonoro che la zampogna aveva affermato. E infatti la lira, la chitarra battente, che sono strumenti molto diffusi in tutta la regione, sono modellati sulla scala musicale della zampogna. Anche le campane Pasquale le accordava come la zampogna. Le accordava il giorno di Sabato Santo e le metteva al collo degli animali il giorno della Domenica di Pasqua. Quando faceva questa operazione, lui poi era compiaciutissimo della firma acustica che stava imprimendo al territorio, perché loro il territorio, cioè lo spazio, il tempo, li potevano addomesticare solo attraverso circuiti sonori. Erano eredi delle antiche cosmologie che avevano messo il suono, ma poi del resto anche il cristianesimo in principio fu il verbo, cioè loro avevano l'udito come un senso privilegiato, mentre questa cultura di cui stavamo parlando occidentale, che poi è sfociata nel capitalismo, comincia a sorgere proprio in un momento in cui la vista diventa il senso principale. A un certo punto è partita nella storia culturale dell'Europa un'operazione per cui l'udito e tutti gli altri sensi, tranne la vista, sono stati minimizzati e la vista è stata messa al centro di tutto. Ma questa operazione, questo orientamento si doveva affermare perché proprio chi privilegia la vista si colloca come osservatore al di fuori della realtà che lo circonda, mentre questi contadini e questi pastori, continuando a privilegiare in pieno XX secolo l'udito, consideravano il mondo che attraversavano tutti i giorni uno spazio acustico, per cui era il paesaggio, non era un paesaggio visivo, un campo visivo che si colloca davanti a chi lo percepisce, ma era una realtà dentro la quale l'uomo era collocato in maniera totale, cioè era intimamente, perché tu non puoi l'udito frazionarlo, chiuderlo, cioè tu sei all'interno di un campo acustico, non sei all'esterno davanti a un campo visivo. E allora loro, che avevano mantenuto la prevalenza dell'udito, poi continuavano a comunicare con il soprannaturale, di cui ora cerco di darvi una descrizione sommaria, attraverso circuiti sonori. Quindi la produzione acustica, la produzione musicale era essenziale per ingraziarsi queste divinità, perché poi l'idea che avevano del mondo era il mondo come armonia, come orchestrazione, e allora loro dovevano questa armonia rilanciarla continuamente, percepirla, essere capaci di una percezione acustica finissima e poi contribuire al paesaggio sonoro, cioè a quello che già in natura acusticamente si produceva, e lo facevano con una capacità molto elaborata, perché erano con un'estetica musicale che era stata costruita dalle generazioni precedenti e che loro continuamente rielaboravano. Però questa estetica musicale era fondata sull'imitazione, cioè non potevano costruire dei suoni capaci di spiccare sull'ambiente che tutti i giorni vivevano, ma dovevano costruire dei suoni che con quell'ambiente si armonizzavano. Per cui la produzione acustica attraverso gli strumenti musicali, ma anche attraverso queste campane di cui stavo parlando, scusate se divago perché sono stanco, ma procedo pure sempre a braccio, quindi fermatemi come ha fatto lui se c'è qualche cosa da chiedere. Le campane che accordava Pasquale come la zampogna erano la sua firma acustica nel territorio che attraversava tutti i giorni, nei pascoli che quotidianamente percorreva con le pecore, però era anche una maniera per aumentare l'armonia del mondo, come stavo dicendo, quindi per ringraziarsi queste potenze benevole che avrebbero fatto ritornare l'erba, le stagioni, e avrebbero favorito la fecondità delle donne e degli animali. E lui quindi doveva, per ottenere questa armonia, essere capace di attenersi all'estetica musicale del luogo che gli umani avevano elaborato, ma anche alla percezione continua che aveva dei fenomeni acustici che tutti i giorni poteva prendere in considerazione, cioè con i quali entrava in contatto. Allora Pasquale mi spiegava pure che queste campane accordate, come gli strumenti che lui suonava il doppio flauto, suonava l'organetto, quindi partiva sempre con uno strumento musicale in mano con gli animali, questi suoni avrebbero cacciato le presenze demoniache. Cioè la sua idea del mondo era che era pieno di presenze soprannaturali, alcune erano potenzialmente benevole ma bisognava tenere i rapporti, altre erano ostili. Queste presenze ostili però non gradivano i suoni organizzati, infatti mi diceva lui che i tamburi nari che tutti gli anni, quando c'è la festa del paese, sopraggiungono il giorno prima della festa, puliscono lo spazio paesano. Dice: noi pecorari siamo come e tamburi nari. Dice: vedi che nettano tutto, perché c'erano delle presenze demoniache che lui nominava pure, le narade, pendine, pandette, lamie, cioè c'erano delle presenze che dovevano essere governate. Allora lui, come pastore, era orgoglioso di questo rapporto con il meraviglioso, col soprannaturale, che i contadini avevano meno. Quindi mi diceva: se non c'eravamo noi pecorari, dice, che questi contadini non venivano da campagna, perché infatti, in effetti, se notate come sono stati costruiti gli spazi urbani, cioè i paesi, sono tutti paesi dell'interno, e l'insediamento qua in Calabria è stato prevalentemente insediamento nei paesi, cioè l'insediamento per case sparse è stato minoritario, e lui lo riconduceva a questa necessità di governare la presenza di demoni ostili. Quindi i contadini stavano nei paesi e loro, i pastori, aprivano i cammini, ma i cammini li aprivano attraverso un'attività musicale. Capitava che io passavo giornate intere con lui, no? Quando ero soprattutto d'estate, e quando si passava vicino alle sorgenti lui suonava sempre o cantava, e allora io gli chiedevo: ma Don Pasquale, ma perché ogni volta suonate sempre? Dice: se non ci porti l'allegria o spirito dell'acqua, l'acqua non summa più, cioè se non porti l'armonia, l'allegria, lo spirito dell'acqua, l'acqua non viene più fuori. Quindi loro avevano in un continuo lavorio, perché poi c'era lo spirito della capra, il sole era una divinità, la Madonna della montagna probabilmente aveva sostituito la madre terra, che poi ci diceva Gioacchino Criaco, uno scrittore calabrese che è stato qua al Cartella qualche mese fa, che i pastori di Africo continuavano a tenere il culto della madre terra. Quindi ci diventa più chiara questa cosmologia, questa idea della presenza divina accanto all'umano. E poi loro, che avevano divinizzato la natura e tenevano dei rapporti di questo tipo, avevano considerato come presenza soprannaturale fondamentale quella dei defunti, perché praticamente la loro visione del mondo teneva insieme e sulla terra, no, in uno spazio che tutti i giorni vivevano, i vivi e i morti, e gli umani e gli esseri soprannaturali. I morti presiedevano anche loro al ritorno delle stagioni, alla germinazione dei semi. E io ricordo una cosa che ho vissuto per almeno 4-5 anni, quando avevo, in quel periodo che avevo 8-12 anni, c'era un rito a Marina di San Lorenzo. Il 2 novembre, che era il giorno dei morti, gruppi di bambini andavano in giro per le case del paese, anche per le campagne, a chiedere cibo, dei dati morticelli. Avevamo un sacco e noi ci annunciavamo con una trombetta che era una sorta di kazoo. Era costruita con una canna e poi c'era una carta velina e un laccio che la legava, un buco, e suonavamo una musica che annunciava il nostro arrivo, e noi ricevevamo fichi, castagne e noci, scusate che non ho... fichi, castagne, noci, e ricevevamo anche cioccolate svizzere, mandorle, e alla fine poi il consumo collettivo di cibo che facevamo come bambini era la produzione di un'abbondanza alimentare, che anche questa doveva propiziare la benevolenza delle divinità, che quel giorno cominciavano le semine del grano e le semine delle fave pure, cioè le facevano ritualmente cominciare nel giorno dei morti. Quindi anche i morti erano delle potenze che dovevano essere sollecitate con dei comportamenti rituali a loro graditi. Questo comportamento della questua rituale, poi nelle scadenze che erano state cristianizzate dell'anno agricolo, si ripetevano. Per esempio la scadenza invernale, il Natale, diventava nel rito popolare la novena di Natale. La novena di Natale comportava il giro di suonatori itineranti, questuanti, di casa in casa, che facevano ancora oggi la facciamo la novena, io per esempio ogni anno la faccio con degli amici in un paese della Piana di Gioia Tauro, Polistena, e la novena comportava la produzione di cibo consumato collettivamente. E ancora oggi, quando andiamo a Polistena, di casa in casa, tutte le persone del paese imbandiscono una tavola. Noi suonatori giriamo per le case e portiamo il repertorio natalizio collegato alla devozione del bambino, quindi c'è il sincretismo, ma ancora l'antica ritualità agraria viene fuori, perché lì c'è la festività, si realizza un momento festivo in cui le persone stanno in una maniera, c'è un parossismo dell'allegria, cioè questo cibo che viene preparato, ci preparano zippoli, le crispelle, torroni, qualcuno prepara, ti fa mangiare, perché poi noi percorriamo tutto un quartiere di Polistena. In questo quartiere, che è un quartiere popolare, di persone che si sono inurbate ma hanno ancora la campagna, è stato facilissimo rivitalizzare, perché la novena con queste modalità non si faceva da una ventina d'anni, la facevano frettolosamente dei gruppi di ragazzini con l'organetto. Appena abbiamo cominciato a suonare le canzoni giuste nel contesto che era pronto col vissuto che aveva, allora questa novena è rinata come novena in cui si mangia, si beve. Allora vengono appresso a noi, usciamo da una casa e vanno nella casa accanto, tutte le persone che c'erano in quella casa stanno insieme, mangiano pure là, bevono, brindano, si abbracciano. Cioè c'è un momento in cui l'auspicio antico delle culture contadine dell'abbondanza alimentare sembra uguale a 30, 40, 50, 60 anni fa, ma in realtà è un contenitore rituale che si sta mantenendo, perché i significati che attribuiscono queste persone, che ormai non legano la loro sopravvivenza al raccolto, cioè mentre quando io ero piccolo c'era ancora la trepidazione per come sarebbe andata l'annata agricola, quindi l'investimento emotivo era fortissimo nel tentativo proprio di ingraziarsi queste potenze che avrebbero garantito il ritorno del seme e il grano, quindi alla fine del ciclo. In questo caso il contenitore rituale serve ancora, ma quello che stanno esorcizzando le persone di Polistena, io lo sto vivendo in maniera assidua perché è dal 2009 che vado là, stanno esorcizzando la fine della comunità, perché loro adesso, finiti i legami sociali forti che in questo mondo rurale di cui vi sto parlando erano un tratto fortissimo, un tratto culturale fortissimo, cioè c'era un solidarismo e un modo di stare insieme, perché non solo l'uomo si legava alla natura come consapevole che faceva parte di un tutto, ma anche dal punto di vista sociale l'uomo faceva parte di un tutto, cioè loro si consideravano, Pasquale e Mica, si consideravano non dei singoli che potevano vivere da singoli, ma si consideravano delle persone che insieme a un tessuto sociale potevano relazionarsi a questo mondo soprannaturale. Quindi i riti erano comuni, le vicende sociali, cioè anche i riti di passaggio delle persone che facevano parte delle tante famiglie, erano comuni. C'era un compatto universo agropastorale. A Polistena questa cosa non c'è più, però il vissuto consente di riprendere il rito in una maniera che sembra identica al passato. E però se parli con loro, cioè loro quello che stanno cercando di scongiurare attraverso il rito, quindi attraverso i momenti di socialità intensa, allegra, molto effusiva che vivono in quei giorni, è la fine della comunità, perché si percepiscono ormai nel vasto mondo irrelati, amorfi, in un contesto che tende a schiacciarli piuttosto che a proteggerli. E allora riprendere quella tradizione, quella possibilità, significa dire noi siamo comunque ancora delle persone che avvinte da qualche cosa, che un giorno possiamo trovare rifugio in questa unione che il rito ogni anno ribadisce. E quindi queste persone della comunità di San Lorenzo, che facevano questi riti, che dovevano comunicare anche con i defunti, cioè avevano uno sguardo sul mondo e una maniera di organizzare la realtà che era completamente diversa da questa che stiamo vivendo oggi, cioè nel contesto urbano, nella realtà sociale, industriale, economica e sociale. E allora l'interesse che penso che possano avere oggi, che ci troviamo a un bivio, cioè veramente per la prima volta nella storia umana stiamo per consegnare un pianeta inabitabile alle generazioni che verranno. Quindi il bivio è questo, cioè da un lato c'è la catastrofe, dall'altro c'è la possibilità di una rifondazione, ma dovremmo arrivare a uno stato di civiltà più avanzato di questo attuale. E allora uno sguardo gettato sui contadini e i pastori, che fino a poco tempo fa sono stati ancora testimoni di una cultura plurimillenaria in continua evoluzione, cioè nessuna cultura umana è ferma sempre allo stesso posto, e loro hanno abbracciato e rielaborato tratti culturali che poi era possibile che nel mondo mediterraneo c'era uno scenario propizio alle sintesi culturali, agli incontri, agli scontri pure, perché prima che nascesse l'idea della nazione, che si facesse l'unità d'Italia, perché queste nazioni sono state molto funzionali allo sviluppo industriale, cioè alla creazione del mercato interno e poi all'imperialismo, alla divisione del mondo in sfere di influenza. Ma prima che ci fossero le nazioni c'era lo scenario mediterraneo, e questo scenario, cioè, era le nazioni raccontano di aver unito, invece poi alla fine hanno separato e diviso, cioè quello che c'era prima. Domenica Cozzucoli, la moglie di Pasquale Scaramozzino, che è stata una grande cantante del Mediterraneo del Novecento, aveva delle scale musicali e degli orientamenti della voce che erano rintracciabili, sono rintracciabili ancora nell'altra sponda del Mediterraneo, quella orientale, e anche nel Nord Africa. È evidente che ci sono stati contatti. Per esempio in Calabria abbiamo la lira. La lira è uno strumento ad arco a tre corde che è ancora presente nel mondo orientale del Mediterraneo, cioè nella ex Jugoslavia, in Croazia, c'è nella Macedonia, in Tracia, nelle isole del Dodecaneso, in Turchia, c'è addirittura in Bulgaria uno strumento del tipo della lira. Ora in Calabria è arrivata non si sa quando, perché l'hanno cominciato a diffondere i bizantini e gli arabi a partire dall'epoca dell'introduzione dell'archetto, probabilmente nell'undicesimo secolo, nel decimo forse. Ma questa lira calabresizzata, cioè anche in Calabria ricondotta alla scala musicale della zampogna, è veramente un emblema di questo tessuto comune del Mediterraneo, cioè in cui avvenivano continuamente degli incroci, c'era poi una disponibilità culturale che ancora i contadini avevano. Cioè, mentre noi nel mondo in cui viviamo abbiamo semplificato la nostra percezione della realtà sociale e non ha spunto l'altro, mentre loro percepivano la società come una cosa molto articolata, cioè sapevano che c'erano loro e sapevano che c'erano le persone urbane con la cultura urbana alla quale si rapportavano, come diceva Pasolini. Cioè, Pasolini rimpiangeva l'umiliazione che avevano subito i sottoproletari romani quando si erano imborghesiti, quando sotto i colpi del consumismo si erano sentiti inferiori e avevano cominciato a non essere più sorridenti e sfrontati quando entravano nelle case dei borghesi. Lui descriveva il fornarino, quello che portava il pane, dice: entrava nelle case con un sorriso che screditava tutto, anche se aveva l'ossequio nei confronti di un altro mondo culturale, di un'altra realtà, però era alla sua realtà che doveva fare il riferimento. Quindi la sensazione che ci fosse un'articolazione nel mondo che ho conosciuto io da bambino, da ragazzo, era fortissima. Mentre noi ora soffriamo l'espunzione dell'altro, stavo dicendo, ma l'hanno detto dei filosofi, che noi, mentre prima sentivamo il fascino, l'attrazione e anche la paura dell'altro, quindi la nostra maniera di rapportarci alla società era con lo spirito d'avventura. Cioè, noi facevamo dei percorsi dialettici, pensavamo che la conoscenza avveniva attraverso delle tappe d'avvicinamento, per cui c'era anche la possibilità di impattare in una cosa difficile, però sentivamo pure l'esigenza di affacciarci su realtà che erano diverse da quella che vivevamo, per quanto articolata potesse essere. Cioè, lo spirito d'avventura esisteva. Oggi invece c'è l'uguale, cioè c'è la necessità di uniformarsi a delle relazioni fittizie che poi diventano oppressive. C'è un'altra, oggi c'è l'uguale, il mi piace, il condivido. Un'altra cosa che succedeva nel contesto che ho vissuto io e di cui sto cercando di parlarvi, mentre oggi i rapporti che si vivono nel contesto urbano, ma ormai anche nei paesi, sono fortissimamente condizionati dalle gerarchie e dai ruoli rigidamente fissati. Sono rapporti che cercano di scongiurare l'immediatezza del contatto tra le persone. Mentre questa mia seconda mamma, che è stata Domenica Cozzucoli, aveva un bisogno di contatto estremo e quindi una capacità pure di contatto, di istituire relazioni immediate, noi viviamo in un campo minato. Cioè, siamo con l'idea che c'è proprio i ruoli rigidamente fissati comportano che uno sposta delle pedine e si muove da un bunker, e non succede mai che le persone si incontrino in una maniera profonda. Ora, io ho visto che questi pastori di Sallo, dimmi. Certo. La filoxenia era un paradigma della nostra cultura, cioè nell'area grecanica, di cui stai parlando anche, sì, di loro. La filoxenia era appunto accoglienza dell'altro, cioè l'altro era amico, filo. Adesso c'è la xenofobia, quindi c'è anche lì c'è un cambiamento di paradigma veramente importante. Stavo per dire una cosa sugli indiani, stavo per dire, perché quando sono arrivati gli indiani a Marina di San Lorenzo, e sono arrivati perché hanno subito i contraccolpi della Rivoluzione Verde, e per sfotterci hanno chiamato Rivoluzione Verde l'introduzione in India dell'agricoltura industriale, e hanno puntato all'innalzamento delle rese del riso. E questo ci ha raccontato Vandana Shiva, ha comportato l'erosione della fertilità del nord dell'India, in particolare c'è stata dimezzata nel giro di 40 anni, dagli anni 60 in poi, e poi ha comportato l'espulsione di milioni di contadini indiani. Una parte di questi è venuta verso qua a lavorare in quel lavoro terribile delle serre dei fratelli Falcone. A Marina di San Lorenzo c'è una forma di agricoltura industriale da decenni ormai, e gli indiani sono arrivati a lavorare là. Quando sono arrivati, tutta la componente della popolazione terziarizzata, che ormai faceva i conti, pure si stava uniformando ai reggini che arrivavano lì, che avevano fatto le case, le ville, quindi era una popolazione che guardava al modello culturale urbano e che si stava proprio sempre più dissociando da questa componente rurale. Era successo per esempio in quegli anni che, mentre quando ero piccolo facevamo un rito del Upascuni, il giorno di Pasqua, di Pasquetta, tutta la popolazione di Marina di San Lorenzo, cioè 400-500 persone, andavano a piedi verso Misafrica, che era nel cuore della Fiumara, considerato il luogo dell'origine. Poi in realtà era il luogo dell'origine per una quarantina di gruppi familiari che venivano veramente da là, ma il paese poi aveva accolto persone che venivano da Corio di San Lorenzo, da Pilati, da Montebello. Ma in quegli anni c'è proprio il cambiamento culturale, è stato marcato dalla fine di questo rito, perché quel rito voleva dire: noi veniamo da lì, siamo persone che hanno vissuto la vita rurale in maniera totale, totalizzante. Se la modernità dovesse andare male per i nostri figli, i nostri nipoti, perché anche noi, alcuni di noi, hanno fatto l'emigrazione e hanno sofferto, e quello è un rifugio, cioè è il luogo in cui possiamo tornare e in cui per ora ci stiamo ancora continuando a riconoscere. Lì c'erano delle case sparse, ormai ridotte a ruderi, però c'erano ancora dei giardini che i discendenti di quella popolazione continuavano a coltivare, e poi erano luoghi di pascolo, non più luoghi in cui si seminava il grano in maniera proprio intensiva. Fino agli anni 60-70 si è seminato il grano, poi hanno fatto il rimboschimento con gli eucalyptus e quindi hanno cambiato la destinazione di quei posti. Cioè oggi, anche se qualcuno volesse ritornare all'agricoltura del grano, avrebbe un po' di difficoltà, anche se ci sono molti terreni abbandonati che non sono coltivati e potrebbero esserlo. Questa popolazione di San Lorenzo, Marina, andava là. A un certo punto, quando ha smesso di andare là, è stato proprio il momento storico in cui si è affermato l'orientamento urbano, cioè la percezione urbana del mondo. E queste persone sono state, in quegli stessi anni, i pastori, i contadini, Pasquale e Mica soprattutto, le persone che hanno supportato gli indiani, cioè li hanno guardati con curiosità, quindi hanno cercato l'incontro, il contatto, mentre loro nel paese, salute Bruno, attraversavano il paese nell'indifferenza generale. E poi la prima bambina indiana che è nata a Marina di San Lorenzo è stata tutti i giorni baleata da Mica, da una delle figlie di Mica, l'ho tenuta in braccio pure io. Cioè loro hanno avuto curiosità nei confronti di questa popolazione che veniva da un altro mondo, non l'ha avuta il resto della popolazione. E questa necessità di ritrovare delle forme di incontro è preliminare a qualsiasi possibilità di imbastire un'opposizione per provare a trasformare il mondo, per provare a creare una conflittualità, perché proprio non avendo più la sensazione che è possibile interagire con altre esperienze, alla fine non abbiamo storie e esperienze comuni, cioè non siamo più come queste persone che andavano a Misafrica, legate a un posto che potrebbero difendere dalla speculazione, dagli attacchi. Cioè noi siamo totalmente separati dai luoghi che abitiamo. Mentre abbiamo detto che Pasquale e Mica e le persone come loro vivevano il territorio come habitat, noi viviamo il territorio come un posto che a noi è estraneo, cioè non ricaviamo la sopravvivenza dal territorio. Quindi se ci mettono delle pale eoliche, se ci mettono dei pannelli fotovoltaici, non misuriamo immediatamente la perdita in termini proprio di possibilità di sopravvivenza che stiamo subendo. Allora, secondo me, cioè anche se noi veniamo da un percorso completamente diverso da quello che hanno fatto queste persone di estrazione rurale, la necessità di accostarci a loro è urgentissima per elaborare qualcosa che ci consenta di vivere i territori in questa maniera urgente. Cioè è urgente che non ci sia la dicotomia tra l'uomo e l'ambiente di insediamento, tra l'uomo e la natura. Ora, loro detenevano dei saperi territoriali. Per esempio Pasquale in particolare mi diceva sempre che sarebbero tornati tutti là. Dice: ci pare a chisti che hanno a corrente elettrica, che andanno tutto da spesa dei supermercati. Dice: ma un giorno puzzeranno di fame, perché quando viene meno la corrente elettrica è tutto questo. Perché poi lui era consapevole, sai, Pasquale aveva fatto tante esperienze, era stato mandato da Mussolini a spezzare le reni alla Grecia, no? E lui, con i parametri culturali che si portava dietro, ha rifiutato quella cosa, perché lui viveva l'onore come il concetto dell'onore, il sentimento dell'onore per lui era la capacità di soccorrere chi ha bisogno, chi è debole. Quando gli hanno comandato di sparare su persone inermi, lui ha detto che quelli erano disonorati, erano assassini, ed è riuscito a relazionarsi, a imparare il greco, perché era andato in Grecia con solo pochi rudimenti di grecofonia. Ha imparato il greco dividendo il rancio che passavano tutti i giorni, perché loro presidiavano dei villaggi che erano abitati soltanto da anziani, donne e bambini, mentre gli uomini stavano facendo la resistenza nelle montagne. Allora lui, siccome alcuni di queste donne, di questi anziani, avevano protestato perché erano alla fame, cioè non avevano cibo, diceva mangiavano erba come crape, senza olio, senza niente, lui ha solidarizzato con loro e poi ha fatto la resistenza. Cioè, invece di combattere con gli italiani contro i greci, a un certo punto, avendo saputo che c'era la resistenza dei greci nelle montagne, ed è finito poi in un campo di concentramento in Austria, e i tedeschi erano convinti che lui fosse greco, perché non aveva per fortuna segni di riconoscimento, ed è stato internato e poi è scappato dal campo di concentramento. Lui aveva maturato una coscienza antistatale definitiva, cioè aveva detto: chisti ne mandarum e ammazzamo cristiani che non deficero niente. Quindi aveva capito che c'era uno sfruttamento all'interno di uno stato nazionale, che c'era uno sfruttamento della popolazione per fini che con gli interessi della popolazione non coincidevano per niente. E allora lui era nello stesso tempo internazionalista e anche era localista. Cioè lui pensava che nessun luogo della terra dovesse essere sottomesso a un centro, e che tutti gli uomini del mondo sono affratellati dalla comune appartenenza alla terra. Ora, queste persone, cioè, erano dei nuclei di resistenza negli anni in cui imperversavano i fenomeni di cui parlava Pasolini. Cioè, per esempio, loro erano a disagio quando hanno visto che il mondo contemporaneo si orientava così, cioè stava debellando tutti i saperi territoriali di cui loro erano depositari. Pasquale sapeva accendere il fuoco senza cendere, senza fiammiferi e senza macchinette, senza accendini. Lui aveva un cornetto di un mezzo corno di capra nella tasca, che riempiva con un'erba che poi era la vuda. La vuda era quell'erba che serve per impagliare le sedie, che c'è nelle fiumare, nei pantani. Lui la seccava, la sminuzzava, era estremamente infiammabile. E allora aveva una pietra focaia sempre pure in tasca, e faceva procurava le scintille che infiammavano quell'erba, si metteva delle frasche intorno, lui accendeva il fuoco e mi diceva sempre: con deppe pane morivo, con Beppe Fuoco campavo. Cioè, mi voleva dire, no, chi detiene queste conoscenze è capace di sopravvivere quando arriva un momento difficile. Invece chi riceve il pane da uno stipendio statale oppure da uno sfruttamento degli altri, arriverà il momento che non riesce a destreggiarsi. Quindi lui aveva il senso di sé come persona autonoma, cioè come avevano e hanno ancora le culture dei cacciatori e raccoglitori, le culture che ancora sono attestate sugli usi paleolitici. Cioè queste persone concepivano la vita come una capacità di arrangiarsi da sé, ed è la cosa che è stata combattuta dal mondo industriale, che doveva ridurre le persone tutte a consumatori, produttori, cioè manodopera, esercito industriale di riserva disponibile al lavoro industriale, e consumatori che avrebbero poi ceduto le armi, cioè mentre Pasquale e Mica non compravano niente. Niente, perché si facevano, oltre all'allevamento degli animali, avevano l'agricoltura, e quindi erano capaci di vivere con i prodotti della terra che da soli riuscivano a produrre. E invece poi i loro stessi figli, cioè poi c'è stata la devastazione nella cultura familiare, hanno aderito al modello di vita e allo stile di consumo, e quindi hanno cominciato a vivere le libertà del mondo contemporaneo, cioè la schiavitù di chi acquista i prodotti al supermercato, e hanno cominciato pure loro a guardare i genitori, perché loro hanno vissuto un'esperienza scolastica terribile, cioè la scuola li ha strappati anche dal luogo in cui abitavano, e hanno dovuto sentirsi dire dai maestri della scuola: bestia, cretino, come parli, si vede che sei figlio di pecoraro. Sì, loro si sentivano, loro non parlavano greco, ma si sentivano inferiori perché avevano un modo di esprimersi che poi era un modo di esprimersi molto ricco, ma che non coincideva con quello che gli stavano impartendo a scuola. Li hanno fatti sentire inferiori. Poi a questa cosa si è saldata pure la vicenda storica del luogo, cioè l'arrivo del turismo di massa, l'arrivo della televisione, che quando eravamo bambini all'epoca di cui 10 minuti va bene, è arrivato quando ero bambino. Io mi ricordo che le prime televisioni degli anni 70 in bianco e nero non avevano presa sulla popolazione infantile, perché era così bello stare per strada che nessuno si ritagliava 10 minuti per vedere la televisione. Quando sono arrivati i turisti in massa, i rigetani in massa, a Marina di San Lorenzo hanno capito che il modello di uomo rappresentato alla televisione era quello stesso che gli stava, e si sono poi tutti questi fenomeni si sono saldati e sono riusciti a espugnare quella realtà. Ora Pasquale e Mica, con gli occhi del mondo contemporaneo, con gli occhi della realtà urbana, sono considerati ingenui, da persone da compatire, da civilizzare, da riportare a quell'atteggiamento utilitarista, pratico, produttivista, che loro non avevano. E così la nostra società si rapporta alla meraviglia in genere, alla dimensione della meraviglia, al bambino, all'innamorato, al primitivo. Ma io ora sti 10 minuti li voglio usare per raccontarvi una cosa di popoli considerati primitivi, che però ci serve a capire la nostra condizione, cioè la nostra condizione è forse a ritrovare una comunità di interessi contrari a questo stato di cose. Nell'Oceano Indiano esiste un gruppo di isole che vengono chiamate Andamane e Nicobare, e là ci sono delle popolazioni, almeno 5 tribù, che sono ancora con la cultura paleolitica, sono cacciatori raccoglitori. Quando c'è stato lo tsunami nel 2004, il governo indiano, perché sono ad amministrazione indiana, ha mandato un elicottero per vedere che cosa fosse successo là, e là poi questo elicottero ha scoperto che tutte le popolazioni ancora paleolitiche si erano salvate, ma si erano salvate sicuramente perché hanno potuto decodificare quello che stavano comunicando gli animali. perché hanno capito che gli animali erano in allarme, hanno capito che stava entrando una marea anomala, un'alta marea anomala, si sono ritirati nell'interno, nelle parti sommitali delle isole, e si sono salvati tutti, non hanno subito alcuna perdita. Invece l'unica popolazione che si era sedentarizzata, cristianizzata e viveva con forme di insediamento, villaggi a ridosso della costa, questa popolazione ha subito la decimazione, cioè si sono salvate poche persone. Ora, tra queste tribù ci sono i cosiddetti sentinelesi, cioè vengono chiamati sentinelesi. Sono, non si sa esattamente quanti siano, no? Vivono di raccolta di frutti spontanei dell'isola in cui abitano, e poi vivono anche, integrano con la pesca che fanno sulla costa. Questi sentinelesi, probabilmente memori di contatti precedenti con uomini che venivano da fuori e che probabilmente non sono stati contatti fruttuosi, ma contatti negativi per loro, hanno rifiutato sempre, da quando insomma c'è la memoria storica della loro esistenza, il rapporto con gli altri. Hanno cacciato le persone che hanno provato ad avvicinarsi all'isola, e quando è passato questo elicottero, e loro hanno opposto l'arco e le frecce. Questa immagine ha fatto il giro del mondo, la fotografia dei sentinelesi, che ora, con le categorie mentali che abbiamo noi, tendiamo a pensare che questa è l'emblema della stupidità, dell'arretratezza, dell'ingenuità. A me invece, in rapporto con i discorsi che stavamo facendo, con i ragionamenti intorno a Pasquale e Mica, alle popolazioni rurali calabresi di cui parlavamo, mi ha colpito moltissimo, perché io ho trovato una profonda affinità tra Pasquale e Mica e queste persone, perché Pasquale era in maniera radicale avverso ai trattori, alle macchine agricole, perché lui veniva da una conoscenza millenaria della terra che diceva che la terra non deve essere sconvolta, c'ha una vita. Lui era già con le conoscenze che poi noi abbiamo acquisito dall'agricoltura biologica, da queste nuove visioni del rapporto con la terra. Ma i contadini e i pastori della Calabria, almeno fino al periodo del fascismo, perché poi il fascismo è stato il primo attacco, giravano qua in provincia di Reggio Calabria gli ispettori della cattedra ambulante d'agricoltura che il fascismo aveva istituito proprio per colonizzare le popolazioni. C'era la battaglia del grano, c'era l'autarchia perché c'era stato l'embargo, e allora giravano per le campagne per convincere i contadini ad adottare le nuove tecniche. C'era la calcioanamide, che era l'antesignana dei solfati ammonici, dei fertilizzanti di sintesi chimica. Ora, lui rifiutava tutte queste cose e rifiutava le macchine, anche perché le macchine che aveva cominciato a sentire nelle campagne si interponevano tra loro e questo dialogo acustico con le divinità. Cioè il paesaggio sonoro che loro vivevano tutti i giorni era uno scenario indispensabile, che era stato spezzato, violentato dall'introduzione delle macchine nelle campagne. Ora, io quando ho visto i sentinelesi ho sentito che loro stavano proponendo una dimensione dell'uomo che contempla l'azzardo, la qualità della presenza, contempla la possibilità di sfidare la morte, perché sono in una condizione che noi civilizzati abbiamo perduto. Cioè loro sentono la consonanza affettuosa col mare, col cielo, e l'elicottero che irrompe con quel frastuono, questa consonanza la spezza, e allora sono in grado ancora di capire che noi siamo la parte di un tutto, che siamo degli elementi di un contesto, e che solo con la salvezza di questo contesto ci possiamo salvare pure noi. E allora, di fronte al mostro che arriva, oppongono l'arco e frecce, quindi eludono il buon senso del senso comune, ma lo costringono a muoversi. Quindi io ho usato i 10 minuti per raccontarvi questo, ma anche Pasquale e Mica dicevano che arriveremo alla fine del mondo. Cioè la percezione che la società industriale distruttiva, fagocitante, stava distruggendo le basi della vita che avevano vissuto loro fino a quel momento, ce l'avevano fortissima, quindi stavano dando un'indicazione di direzione, cioè dovete trovare il modo di opporvi a questa cosa. E Pasquale e Mica stavano vivendo la diserzione dei figli, cioè l'abdicazione dei figli, la violenza che avevano subito i figli li ha portati, mentre loro erano psicologicamente ben messi, cioè avevano vissuto una realtà sociale che gli aveva dato un senso di sé inserito nel contesto, e poi avevano vissuto la forza dei legami in cui erano inseriti. E allora i figli invece no. 5 minuti. Sì. Va bene. No, allora i 5 minuti magari li usiamo se volete fare un'interazione. Se ci sentiamo sì. Al microfono adesso. Posso parlare? No, al microfono bene, devi, perché stanno forse registrando. Ma prima di una domanda qualsiasi, di voi sì, allora, secondo me dovresti intanto dire la parola uomo che tu niente, la registrazione solo al microfono. Perché già questo dà una dimensione, che è una dimensione di ogni compositiva di quello che ho sempre pensato. È bello sentire un viaggio, insomma, farsi un piccolo, dare una piccola occhiata fuori da una finestra di un mondo che non c'è più. Ma c'è qualcosa di pratico che mi sfugge, il pratico. Forse non c'è del pratico. Convivialità, cos'è che vuoi suggerire? Perché, non so, la mortalità infantile dei bambini, insomma, nelle famiglie di pastori non è una cosa che possiamo, insomma, che noi vorremmo accettare di quella realtà, per esempio. La convivialità, beh, ci piace, suona bene. Qualcos'altro? Perché da cosa prendere a casa, ecco. Guarda, c'è un'indicazione di civiltà fondamentale e l'hanno capito tante persone in Calabria. Ci sono delle persone della vostra età, giovani, che stanno coltivando i terreni e stanno contendendo questi terreni all'espansione illimitata delle pale eoliche, che per esempio nelle serre è diventata una tragedia, è un danno ambientale irreversibile. E loro ci stanno dicendo, Pasquale e Mica, che senza la produzione diretta del cibo, e quindi oppure il rapporto con chi produce il cibo, un'emancipazione reale non ci può essere. E questa cosa è verissima, perché se stai pensando a quello che combina l'agricoltura industriale nel mondo, cioè oggi l'agricoltura è uno degli aspetti di un apparato industriale potentissimo che c'ha la chimica, infatti quell'agricoltura che con la sintesi chimica produce i fertilizzanti e i pesticidi è un inquinamento a monte, perché là a monte stai facendo un uso dell'energia esagerato, poi l'inquinamento perché produce molte scorie, poi nei terreni su cui si abbatte produce la morte della terra, cioè la vita, i lombrichi, i funghi, i batteri, muoiono tutti. Allora ora, se noi continuiamo ad affidarci a una produzione del cibo che è nelle mani di un apparato così potente, cioè non ci sottraiamo, ritornando alla terra, noi non è che dobbiamo tornare alla terra esattamente con le modalità di Pasquale e Mica. Loro hanno vissuto un'epoca, avevano una mentalità, ma quella mentalità era in continua elaborazione. Per esempio, per parlare di una cosa su cui mi ha sollecitato Rosalba adesso, quando ci sono state in Calabria le occupazioni delle terre, perché noi abbiamo avuto, come in sintesi, questa storia, c'era un'idea contadina di società e di economia che è stata sbaragliata da tutta la società italiana, compresi i partiti di sinistra. Cioè hanno pensato che se ci fossero stati dei contadini sulle terre, come volevano fare loro volevano l'economia su scala locale. Cioè pensavano al piccolo mercato, alle filiere corte, quella cosa che oggi ci salverebbe, perché è la globalizzazione che ci sta rendendo la vita impossibile. E questa idea cozzava con la volontà comune di creare lo sviluppo del triangolo industriale. Quindi hanno prima sparato sui contadini che occupavano le terre, e questi contadini avevano la legge dalla loro parte, perché c'erano i decreti Gullo. I decreti Gullo consentivano ai contadini riuniti in cooperativa di ottenere le terre incolte. Quando a Melissa nel 49 sono stati ammazzati tre contadini, due uomini e una donna, tra l'altro era c'era un ragazzo di 15 anni colpito alle spalle come gli altri due, quei contadini avevano la legge dalla loro parte, sia perché c'erano i decreti Gullo, sia perché quei terreni che avevano occupato erano terreni usurpati da un antenato di Berlingeri, del Marchese. Questi contadini avevano la memoria, infatti, della perdita degli usi civici, e non sono riusciti, perché poi hanno ottenuto la riforma agraria, ma è stata una presa dei contadini per i fondelli, perché non, per una serie di ragioni, per come è funzionato l'ente valorizzazione Sila, quel grande movimento che puntava alla trasformazione della società e che ha avuto una carica rivoluzionaria enorme. In quegli stessi anni c'è stata in Calabria la Repubblica Rossa di Caulonia, cioè era pure sorretta da un disegno di società, da una volontà di ribaltare i rapporti sociali, ma anche di continuare a vivere nella terra, sulla terra e con la terra. Ora, a questa cosa, secondo me, noi ci dobbiamo riallacciare. Poi noi abbiamo subito lo sbaragliamento di questo disegno, di progetto di società. I contadini sono finiti tutti nell'inurbamento più irrazionale, perché poi lo Stato italiano, oltre a drenare tutte le risorse verso questo decollo industriale, ha cominciato la stagione delle opere pubbliche, quindi il ciclo del cemento, che poi ha creato in Calabria la possibilità per l'Andrangheta di diventare, da organizzazione rurale, un'organizzazione capitalistica che mandava i soldi a Piazza Affari dopo, prima di diventare l'Andrangheta della droga e delle armi, ha avuto il suo ingresso trionfale nel ciclo del cemento. Noi abbiamo avuto poi i contadini, tutti con questo senso di inferiorità ai pastori che sono arrivati nelle città, e hanno scatenato i desideri in maniera illimitata, perché questa società gli diceva: venderai la tua forza lavoro, avrai la tua libertà, ti libererai dalle pastoie di quel mondo opprimente, rurale, e sarai capace di raggiungere risultati, beni di consumo. Ma la realtà poi è stata dura per tutti, quindi hanno tutti interiorizzato un senso di frustrazione, di difficoltà, perché le difficoltà materiali si sono sommate pure a questa visione allucinata. Tutti vedono il benessere di chi sta meglio a portata di mano, ma non lo raggiungono. Quindi c'è una condizione psicopatologica della società urbana che viene dalla distruzione di questo mondo. Cioè noi, se i contadini avessero conseguito quello che cercavano, che perseguivano, avremmo avuto tutti il dissesto idrogeologico scongiurato, perché facevano una manutenzione ambientale da millenni, e poi avremmo avuto pure un equilibrio demografico, cioè una minore sconsideratezza della distribuzione delle persone. Qua in Calabria poi abbiamo vissuto delle esplosioni di disagio urbano, come sono stati i fatti di Reggio, poi egemonizzati per la diserzione delle sinistre che non si dissociavano da quel modello di sviluppo. Quindi il Partito Comunista si era insediato nell'interclassistico sviluppo economico nazionale e vedeva come il fumo negli occhi la possibilità di trasformazione dei rapporti di forza sociali. E allora quando c'è stata quell'esplosione di disagio urbano, è stata poi egemonizzata dal blocco andranghetistico, imprenditoriale, fascista, massonico, perché non c'è stata una sinistra che dava direzione e strategia, cioè che si raccordava a questa storia, che pensava che ci poteva essere una forma di economia locale legata all'agricoltura e alla pastorizia, che sarebbe stata possibile, perché in quegli stessi anni 70 scrivevano degli intellettuali giovani comunisti che la politica dello Stato nazionale aveva perseguito lo spopolamento e il Partito Comunista non aveva per niente, si era reso complice, non aveva ostacolato questa cosa, e poi proponevano delle forme di uso del territorio, il pascolo razionale, alternative al rimboschimento, che è stata pure una maniera di cacciare la presenza umana nelle montagne, perché si poteva rimboschire dove non c'era altra. Un minuto. Sì. Quindi diciamo c'è. Sì. No, t'ho risposto. C'è. Ma. No, no, io ti sto dicendo che non dobbiamo. No, io non ti sto dicendo che dobbiamo andare a morire nelle campagne. Ti sto dicendo che quello che pensavano queste persone, cioè che avevano questo rapporto col territorio e questa mentalità, è oggi un salvagente per noi. Cioè è una possibilità di rapportarci in un altro modo, ma anche di uscire da queste strettoie, perché se non ci riappropriamo della terra, questa ora qua il Mezzogiorno è stato spogliato dall'Unità d'Italia in poi, è stato ora è consegnato agli appetiti di questi affaristi. Se non lo rioccupiamo, cioè se non pensiamo, e lo dobbiamo fare perché anche per la ragione ecologica dobbiamo farlo. Quindi i saperi territoriali di Pasquale Mica ci torneranno utili. Poi la forma di civiltà che vogliamo costruire sarà quella che vogliamo nell'interazione tra soggetti diversi che hanno percorsi e storie diverse. Però secondo me non possiamo prescindere dal legame con la terra. Io vi abbraccio con affetto, proprio veramente. Poi se ci vogliamo tenere in contatto, voi tanto il contatto con Bruno, con Nando, con Rosalba, con Lucia, penso che ce l'abbiate e ci possiamo vedere, perché ci sono realtà che stanno pensando in questa direzione, stanno agendo in questa direzione, le possiamo andarle a conoscere. Buona serata, ciao. Grazie, io invito tutte e tutti a continuare la discussione anche fuori poi dai momenti di talk, e adesso abbiamo il prossimo talk, che in realtà è un laboratorio che si chiama Oltre il capitalismo nella società dell'informazione, e sarà appunto un laboratorio, quindi ci verrà fatta una breve intro. E c'è quasi un proseguimento, nel senso abbiamo parlato del passato e come riprenderci un po' il presente, sono arrivato solo alla fine.